e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Eccoci ritrovate, buona giornata a tutti. Come promesso ieri, sulla scia di alcune vostre telefonate, oggi parliamo, per quello che riguarda il mondo denari, di buoni postali fruttiferi e di una notizia di questi giorni che si riferisce ad un pronunciamento dell'arbitro bancario finanziario. I buoni postali fruttiferi sono uno strumento a cui tanti italiani si affidano perché sono semplici e danno sicurezza. Purtroppo però diversi risparmiatori sono rimasti delusi quando, arrivati alla scadenza del proprio buono, le Poste tempo addietro hanno proposto la liquidazione di cifre nettamente inferiori a quelle che si aspettavano. Parliamo di buoni di una serie particolare che promettevano dopo 9 anni, ma ce ne sono in giro anche alcuni di durata più lunga, trentennali addirittura, di ottenere il doppio della cifra investita. La novità di questi ultimi giorni riguarda il caso di una signora di Pistoia che aveva denunciato la situazione e l'arbitro bancario finanziario appunto le ha dato pienamente ragione. Ricostruiremo questa vicenda. Intanto 800 24 0024, iniziate a prenotarvi se vi siete trovati di fronte ad una delusione da buoni postali. E nella seconda parte della trasmissione non deluderemo chi sta aspettando, come di consueto, l'appuntamento di Salute Uomo che cade l'ultimo venerdì del mese. Allora, ho affidato ad un uomo, cara Deborah, il compito di anticipare. E che uomo? Sentiamo. Come ogni anno Fantozzi si era recato alla USL per il consueto check-up di primavera. La Pina ne attendeva trepidante il ritorno, preoccupata per certe strane vampate di calore del marito. Dunque, marito che mio, solo un semplice problema di climaterio. Il climaterio è come una crisi fisica che viene con l'età, è sinonimo di andropausa. Noi donne abbiamo la menopausa e voi l'andropausa. Allora io sono entrato in menopausa. Allora, meno andro. Cosa succede ad un uomo che ha superato i 50? È possibile parlare per gli uomini di andropausa, allo stesso modo per cui da decenni abbiamo imparato a conoscere gli aspetti emotivi, psicologici e medico-organici della menopausa nelle donne? Di questo parleremo con il nostro professor Andrea Saloni, urologo andrologo presso il Dipartimento di Urologia dell'Università Vita Salute del San Raffaele di Milano e responsabile scientifico del progetto Salute Uomo di Cuore Denari, che è già qua in studio con noi. Buongiorno, buongiorno. Andrea, bentornato. Grazie. Oggi parleremo appunto di quella che erroneamente viene definita come andropausa maschile, nel senso che oggi il termine andropausa non è più un termine corretto, considerato corretto, ma i sintomi psicologici, organici, biologici e tutto quello che adesso consegue sono assolutamente veritieri. Ne avremmo da discutere forse per 10 puntate consecutive. E infatti ci raggiungerà anche il professor Antonino Di Pietro, due esperti per commentare i segni del tempo che passa, quelli che si vedono davanti allo specchio, rughe, cedimenti, macchie, maniglie dell'amore, muscoli meno tonici, stempiature sempre più alte, quelle che non si vedono ma si sentono. 800 24 00 24 per individuarli insieme a noi. Smiles we gave to one another. Serie dove eravamo rimasti, beh, ci fosse Barbara Streisand sarebbe tutto molto romantico. Beh, anche Robert Redford non sarebbe da buttare via dopo Fantozzi. E invece il tema non è tanto dolce ma abbastanza ruvido, quello che vi propongo, come faccio quasi sempre tutti i giorni, per la nostra pagina di denari. L'idea di questa puntata un anno fa parte dalla storia di un'ascoltatrice delusa, perché un anno fa avevamo ricevuto una mail che iniziava così: care Deborah e Nicoletta, mi trovo in questa situazione. Nell'aprile del 2001 ho contratto un buono postale fruttifero serie AF, avevo investito l'equivalente di 25 milioni di lire. Ad aprile dell'anno prossimo, quindi poi questo prodotto è arrivato, certo, a scadenza nell'aprile scorso, secondo i miei calcoli dovrei incassare 38.000 euro lordi. Vi sintetizzo, la sorpresa è che a quella data, secondo Poste Italiane, mi dovranno liquidare circa 17.000 euro, quindi ben più della metà di quanto lei si aspettava. Lorella si è rivolta a noi e noi abbiamo chiesto aiuto ad Alessandro Pedone, responsabile tutela risparmio di Aduc, che è collegato telefonicamente con Cuore Denari questa mattina e che salutiamo. Buongiorno. Buongiorno a voi e a tutti i vostri ascoltatori. Oltre che essere responsabile tutela risparmio di ADUC, Alessandro Pedone è anche consulente finanziario indipendente. Fra poco ci collegheremo anche con un altro ospite, con l'avvocato Stefano Giannunzio dell'area legale della Cassa Depositi e Prestiti. Ci tengo molto a dirlo già da subito perché non è proprio un'istituzione che parla molto frequentemente con i giornalisti, per cui noi stamattina abbiamo il piacere e l'onore. Esattamente. Siamo un po' le preferite, dai. Diciamo la verità. Tra le righe bisogna leggere quando bisogna dirlo. Ecco. Allora, 800 24 00 24, intanto buoni fruttiferi postali, una categoria di prodotti finanziari ancora molto in voga. Pensate che le famiglie italiane tengono investiti oltre 200 miliardi di euro di risparmi in questo prodotto. Siete fra questi, ma soprattutto vi siete trovati in una situazione simile a quella della signora Lorella? Alessandro Pedone, è proprio lei che ha seguito questo caso, ha fatto ricorso all'arbitro bancario finanziario ottenendo che cosa? Perché la comunicazione dell'arbitro bancario è arrivata proprio pochi giorni fa. Sì, abbiamo ottenuto un pronunciamento che, ricordo, è vincolante per gli istituti che aderiscono a questo arbitro bancario e finanziario, quindi compreso le Poste, che ha visto riconosciuto il diritto della signora di avere la restituzione esattamente di quanto scritto sul retro del buono postale fruttifero e quindi i circa 38.000 che la signora Lorella si attendeva. Fa un po' di 18.000, esatto, che volevano dare le Poste. Allora, fa un po' sorridere la curiosa combinazione di eventi, perché questa novità arriva proprio nella settimana in cui Poste è approdata in borsa. Non c'entra nulla naturalmente, però insomma è sempre un mondo molto movimentato quello. Sì. Sarà magari anche una vicenda di poca rilevanza economica quella di per Poste, per tutto il proprio bilancio, però è una vicenda in realtà molto significativa per la diretta interessata e per gli altri diretti interessati. Allora, l'investimento di Lorella, lo dicevo prima, dottor Pedone, è in un buono postale fruttifero appartenente ad una serie speciale, appunto come abbiamo indicato prima, la serie AF di buoni postali. Ci vuole ricordare di che pacchetto stiamo parlando, emessi quando? Sì, diciamo, non è che fosse una serie particolarmente speciale, diciamo era a cavallo nel momento in cui il Ministero aveva emesso un altro decreto per istituire un'altra serie che aveva dei rendimenti inferiori. Il problema è che il dipendente dell'ufficio aveva consegnato alla signora Lorella un buono passato, quindi con le condizioni passate riportate nel retro del buono postale. Quindi la signora Lorella era convinta di aver sottoscritto un buono con quelle caratteristiche. Però in quella data quel tipo di buono non era più valido, cioè era scaduto, e quindi le Poste avrebbero dovuto dargli un altro tipo di buono. Ora, la signora non c'entra niente in questo, che è un errore delle Poste, quindi le Poste volevano far valere il buono che ipoteticamente era in vigore a quella data, mentre la giurisprudenza assolutamente costante fino a Cassazione Sezioni Unite dice giustamente che se le Poste consegnano determinate condizioni poi devono impegnarsi a rispettare quelle determinate condizioni. La cosa strana è appunto che le Poste tempo fa su questo argomento, dove oramai c'è giurisprudenza straconsolidata, Cassazione Sezioni Unite, dicevano che non avrebbero più resistito, diciamo, in giudizio con i clienti che chiedevano di far valere i propri diritti, e invece continuano comunque a opporsi quando sanno benissimo che comunque per i clienti che fanno valere i propri diritti nelle sedi o giudiziarie o, come in questo caso, molto più semplicemente nell'arbitro bancario e finanziario, poi sicuramente otterranno ciò che gli spetta. Chi naturalmente si trova in una situazione più o meno simile a quella di Lorella, perché adesso non tutti quanti coloro che hanno buoni fruttiferi postali magari sottoscritti in un determinato periodo di tempo vicino a quello che stiamo citando possono adire le vie legali per ottenere... Sì, non è un problema. Sì, infatti non è un problema di tempo, è un problema, ci sono due casi diversi, come sicuramente ora diremo poi in seguito. Il caso in cui sul retro sta scritto una cosa e si tratta di un titolo che non è stato cambiato per legge, come invece è tutto un altro caso, allora lì ci sono altre problematiche, ma si tratta di un errore delle Poste, non è intervenuta una legge che ha cambiato il rendimento. In quei casi le poste rispondono del proprio errore e su questo non ci sono ombre di dubbio. Insomma. Certo che è una situazione veramente complicata, peraltro noi ieri abbiamo chiamato la signora Lorella perché volevamo capire se avesse piacere di intervenire ed esprimere la sua soddisfazione per come è finita la sua vicenda, tra l'altro riconoscendo l'impegno di Alessandro Pedone che l'ha seguita direttamente con grande professionalità. Però Lorella ci ha detto: allora, io ho in mano la pronuncia dell'arbitro bancario finanziario, ma le poste mi dicono ancora che non sono pronti i tempi tecnici per restituirmi quanto mi devono, per cui sapete che faccio, io per correttezza e anche un po' per scaramanzia, magari in diretta non vengo, noi però la salutiamo direttamente dal nostro microfono. E peraltro Pedone, proprio Lorella ci chiedeva, magari se riuscite a capire più o meno quando e come potrò rientrare in possesso legittimamente del mio denaro, secondo lei quando Poste dice tempi tecnici, a che tempi si riferisce? Ma dovrebbe essere questione di giorni o al massimo di settimane. Diciamo, le poste, come sappiamo, non brillano per rapidità in genere, un po' tutto quello che fanno. Allora. Quindi diciamo, dovrebbe, in ogni caso, ripeto, la pronuncia è vincolante. Quindi, Adesso parleremo anche di questo, se è vincolante nella misura in cui anche altre persone, facendo riferimento a questa decisione per il caso di Lorella, possono far riferimento allo stesso pronunciamento appunto per far valere i propri diritti. Allora, molti ascoltatori si chiederanno perché non avete chiamato Poste a rispondere di questa situazione. Lo abbiamo fatto, Poste ci ha detto: noi siamo solamente i distributori di questo prodotto, l'emittente è lo Stato e la Cassa Depositi e Prestiti, pertanto rivolgetevi a loro, e noi l'abbiamo fatto, e fra un po' sentiremo proprio un appartenente all'area legale di questa istituzione che ci spiegherà come è possibile che vengano cambiate in corsa, dottor Pedone, le condizioni di un investimento, perché poi il tema è proprio questo, no? Ricordiamo, appartiene questo buono fruttifero di Lorella ad una serie particolare per cui sono state un po' cambiate le condizioni in corsa, anzi nella fattispecie Lorella voleva sottoscrivere un buono, le poste gliene hanno sostanzialmente fatto sottoscrivere un altro. Ci vuole spiegare esattamente che cosa è successo in quel frangente per farlo capire anche ai nostri ascoltatori? Ritorniamo un po' nella ricostruzione. Dobbiamo distinguere due casi molto, molto nettamente distinti. Il 13 giugno del 1986, e non è questa la problematica che interessa la Lorella, quindi non è questo il caso, ma in quella data lo Stato cambiò le condizioni di tutti i buoni postali fruttiferi emessi precedentemente, istituendo una nuova serie che aveva rendimenti più bassi. Coloro che si sono trovati o che si trovano ancora, adesso è passato molto tempo quindi saranno molto meno, ma insomma coloro che si sono trovati o che si trovano ancora in questa situazione, quello è un caso dove è intervenuta una legge. Ci sono state moltissime proteste. Quanto rendevano peraltro e di che tipo di cambiamento di condizioni parliamo? Di molto, perché ora i tassi di preciso non me ne ricordo, ma si trattava di tassi a due cifre e sono stati più che dimezzati, quindi è stato un cambiamento molto molto molto forte. Per varie ragioni, diciamo anche in qualche modo sensate, perché c'era un problema di inflazione, di grandissima riduzione dell'inflazione, eccetera. Però diciamo quello fu un caso, e da un punto di vista giuridico, per quanto profondamente ingiusto, sicuramente sono stati esperiti tantissimi tentativi legali fino alla Corte Costituzionale, che ha dichiarato che quella legge era legittima. E quindi quella strada è una strada che, sebbene oggi si tenti di riaprirla con argomentazioni che magari dopo, se vogliamo, possiamo riprendere, però quella è una strada molto difficile. Diverso invece è il caso della signora Lorella, che è il caso di la classica emissione del buono postale ordinario, che ha delle varie date, cioè ci sono emissioni periodiche. Nel momento in cui si emette la nuova serie devono esserci delle nuove condizioni, quindi il buono, che allora era materiale, doveva riportare le nuove condizioni. Ma se l'ufficio postale usava il vecchio buono e metteva le condizioni delle vecchie condizioni, la giurisprudenza consolidata fino alla Corte di Cassazione a sezioni unite, quindi è quasi come se fosse una legge, diciamo, è una cosa su cui giuridicamente non si torna più, inappellabile, ha sostenuto che se anche era in vigore dal punto di vista temporale le nuove condizioni, ma al risparmiatore è stato assegnato un documento, il buono, che riporta le vecchie condizioni, ciò quelle che sono, vale sono certo. Le vecchie condizioni. Questo è il cuore. E non si capisce perché di fronte a giurisprudenza straconsolidata le Poste continuino a rifiutare il rimborso delle vecchie condizioni e le danno poi il rimborso solo a chi si fa la trafila legale, perché purtroppo, per rispondere a quello che chiedevi prima, questo pronunciamento vale solo per la Lorella, non è che altri che sono nelle stesse condizioni purtroppo ecco. Possono far valere lo stesso pronunciamento. Questo va chiarito subito. Devono fare tutta la trafila infatti. Di un anno che si è fatta la signora Lorella. Ogni caso poi farà giurisprudenza a sé, come si dice. Adesso chiederemo insomma che cosa ne pensa la Real Legale della Cassa Depositi e Prestiti di tutta questa situazione molto confusa e peraltro è molto importante che venga chiarita direttamente da loro, perché i buoni fruttiferi postali sono estremamente diffusi, come dicevo, fra i risparmiatori italiani, per cui a molti che magari hanno sottoscritto in quel periodo questo tipo di investimento verrà il dubbio di andare a chiedere anche alle Poste se, qualora volessero riscattarlo, otterranno più o meno rispetto a quello che è stato inizialmente pattuito. Adesso abbiamo, secondo te, il traffico, mi sa. Andiamo, va. Andiamo. Autostrada Pedemontana, la prima e unica senza caselli. Scoprila su pedemontana.com. Vi presenta Cuore e Denari. Arrivano i buoni, arrivano, arrivano. Finalmente hanno capito che è qualcosa. Non credo che Bennato si riferisse proprio ai buoni postali fruttiferi. Però Marco ha trovato proprio la canzone giuste. Perfetta. Anche perché insomma questi strumenti di investimento, almeno determinate serie, tanto buoni non sono stati, proprio perché per alcuni sono state cambiate le condizioni in corso. Altri invece, come nel caso di Lorella, si pensava rendessero in un certo modo, poi Lorella appunto ha scoperto, l'ascoltatrice dalla quale siamo partita, che invece aveva sottoscritto con Poste buoni di un'altra serie. Insomma, una situazione molto confusa che penso però, Pedone, magari rifaccio una considerazione con lei, oggi forse sarebbe difficilmente ripetibile. Sì, assolutamente, oggi questi casi sui buoni sottoscrivibili oggi sostanzialmente non capitano mai. Oggi ci sono purtroppo altre problematiche, perché in larga parte a causa del fatto che i tassi, i rendimenti di mercato in genere sono bassissimi e quindi ovviamente anche i buoni postali fruttiferi hanno rendimenti bassi, ma purtroppo per altra circostanza, a causa un po' della trasformazione delle Poste, il valore, cioè i rendimenti di questi strumenti, già negli anni in cui i tassi comunque erano abbastanza buoni o comunque diversi da adesso, sono diminuiti molto, e questo a causa dei costi che le Poste si prendono alla Cassa Depositi e Prestiti per distribuire queste cose. E quindi, sebbene il risparmiatore non veda, giustamente, non c'è nessun tipo di costo connesso che veda allo strumento, però le Poste si prendono dei soldi dalla Cassa Depositi e Prestiti per questo lavoro e questo fa abbassare i rendimenti dei buoni postali fruttiferi, che dovrebbero essere in linea con quelli dei titoli di Stato. Un po' come commissioni di retrocessione delle reti di distribuzione, sì, alle banche. Sì, tecnicamente non si possono chiamare in questo così, modo, però, ma il concetto è molto simile. Il concetto è molto simile a questo. Allora. E quindi è stato un po' distrutto un valore da uno strumento che invece è molto, di per sé, per come è fatto tecnicamente, è molto adatto ai risparmiatori che non vogliono prendere rischi di nessun tipo, diciamo che non hanno una cultura finanziaria. Era uno strumento meraviglioso da certi punti di vista e purtroppo negli ultimi anni è stato veramente un po' spolpato di valore. Allora, l'abbiamo chiamata in causa e adesso dobbiamo interpellare la Cassa Depositi e Prestiti. Buongiorno e grazie per essere con noi l'avvocato Stefano Giannunzio dell'area legale di questa istituzione. Buongiorno avvocato e benvenuto a Cuore Denari. Benvenuto. Buongiorno a lei. Ha sentito la prima parte della trasmissione, intanto che abbiamo riassunto un po' il caso di Lorella e il caso di molti altri risparmiatori? Sì, ho sentito. Io le lascio campo libero. Allora, che cosa può rispondere la Cassa Depositi e Prestiti rispetto a queste situazioni che sul territorio sono proprio diffuse a quanto pare? E naturalmente so che lei ci tiene a precisare che dobbiamo chiarire la situazione a seconda della serie di buoni fruttiferi postali, appunto, delle quali parliamo. Avvocato Giannunzio, le lascio direttamente il microfono. Ok, grazie. Dunque, intanto sul problema della signora Lorella non intervengo, perché mi sembra chiaro che si tratti di un problema diverso da quello che dobbiamo affrontare, e quindi vorrei concentrarmi sull'annoso tema del rendimento dei buoni lettera serie O. E volevo innanzitutto dire che questo problema, che poi andiamo velocemente a esaminare, riguarda solo ed esclusivamente alcune serie di buoni emesse prima dell'86, prima cioè del decreto del Ministero del Tesoro del giugno dell'86. Per tutte le serie successive, quindi emesse dal 1987, il problema non si pone più, quindi è un fenomeno unico e irripetibile. Questo è molto importante che vada chiarito, quindi è un fenomeno circoscritto nel tempo e irripetibile. Il motivo per cui si è verificata questa situazione, per cui questi buoni hanno avuto al momento della riscossione un tasso di interesse più basso di quello che avrebbe dovuto essere, nasce da una specifica normativa e quindi dal codice postale e da un decreto del ministro che consente questa operazione. Quindi Cassa Depositi e Prestiti chiaramente capisce le ragioni dei risparmiatori ed è vicino a tutti coloro che non si sono visti riconoscere un rendimento atteso, ma pur comprendendo e pur essendone dispiaciuta, perché poi sono i nostri tradizionali clienti, non può far nulla, perché il tutto nasce direttamente da una legge e da un decreto ormai datato del Ministero del Tesoro. Tra l'altro esiste, avvocato Giannunzio, una statistica quanti buoni fruttiferi postali appartenenti a questa serie O, come lei l'ha richiamata, appunto, siano in circolazione? Guardi, io non abbiamo i dati statistici non ne ho. Abbiamo un contenzioso abbastanza rilevante, però al di là del contenzioso, di cui poi magari parleremo in seguito, volevo comunque dire che i buoni postali e con esso il risparmio postale rimangono uno strumento di investimento a cui gli italiani tradizionalmente sono sempre affidati e continua a essere uno strumento semplice, sicuro, garantito dallo Stato e assolutamente chiaro e trasparente. Guardi, addirittura poi, le associazioni dei consumatori lo riconoscono, perché esatto, anche Pedone prima lo diceva, il problema è risolvere questi casi che abbiamo. Allora, l'iter giudiziario che si sta manifestando sul territorio, ci sono alcune decisioni di alcuni, c'è il giudice di Savona che ha deciso, riconoscendo appunto il diritto per i risparmiatori del pieno risarcimento, ci sono anche altre situazioni, c'è il caso di Lorella che non è nella fattispecie di quelli che lei richiamava, ma mi chiedo appunto, voi che cosa ne pensate? Ci diceva abbiamo un contenzioso abbastanza rilevante, come lo state gestendo, avvocato? Guardi, diciamo che il nostro contenzioso viene gestito attraverso l'Avvocatura Generale dello Stato, perché appunto è diffuso sul territorio. Devo dire che l'andamento è diciamo così in larga misura favorevole a Cassa Depositi, nel senso che tutti i giudici alla fine non possono che rilevare che questo meccanismo non è altro che il frutto di una normativa, e quindi i tribunali lo riconoscono. Addirittura anche la Corte di Cassazione nel 2007 ha addirittura detto che per questo tipo di buoni la possibilità di un cambiamento del tasso era addirittura un elemento caratterizzante del titolo. Ora, che ci possano essere dei giudici di primo grado, giudici di pace che, diciamo così, concedono dei decreti ingiuntivi provvisoriamente esecutivi, eccetera, può succedere, anche a noi è successo, ma per quello che ci consta, in secondo grado di norma vengono tutte ribaltate queste sentenze, e senza considerare che comunque, ove si arrivasse all'ultimo grado, la Cassazione si è già pronunciata. Tra l'altro, è il caso di dire, anche la Corte Costituzionale è stata investita in passato e ha dichiarato che questo sistema normativo non è antico. L'abbiamo ricordato prima, la sentenza 333 del 2003. Avvocato Giannunzio, io la ringrazio per essere stato con noi, abbiamo intanto alcuni ascoltatori pronti ad intervenire, li sentiremo almeno un paio nell'ultima parte di Cuore Denari tra poco, risponderà allora Alessandro Pedone. Intanto grazie a tutti, andiamo a sentire il giornale radio perché è tardissimo. Direi che è una buona idea, andiamo. Il segnale orario vi è offerto da Pantera col TH, l'ERP di Infracom Italia, anche in cloud. Cuore e denari. Questa canzone qua con i buoni fruttiferi postali, la relazione è un po' più ardita, però perché un'emozione è una delusione. E vabbè, e questo è quanto ci offre oggi Eccola il convento. Qua. La delusione è non da poco quella di vedersi restituire 17.000 euro dopo un investimento di circa 14 anni, quando l'aspettativa era di averne 38.000. La storia della nostra Lorella, protagonista circa un anno fa di una puntata di Cuore Denari, una storia che sembra avere un lieto fine, ancora non l'abbiamo siglato questo lieto fine definitivamente, perché l'arbitro bancario finanziario si è pronunciato a favore della restituzione della cifra inizialmente promessa. Lorena ha fatto bene a rivolgersi a Cuore Denari, noi abbiamo fatto bene a coinvolgere Alessandro Pedone, responsabile ADUC per la tutela del risparmio, che ha seguito direttamente questo caso e non solo. Allora, lo abbiamo ricostruito ricordando anche qual è la situazione di tutta una serie di buoni fruttiferi postali al centro di una vicenda simile. Con la Cassa Depositi e Prestiti abbiamo ricordato quali altre serie in circolazione hanno una condizione problematica in questo momento. Ma Alessandro Pedone, prima di salutarci, le faccio sentire magari un ascoltatore che vuole raccontarci il suo caso, per poi andare anche a dare delle indicazioni pratiche e concrete ai nostri ascoltatori che magari stanno vivendo la stessa situazione, la stanno scoprendo in questi giorni e non sanno bene che strada intraprendere. Allora sentiamo Raffaele da Napoli, buongiorno. Buongiorno. Allora, la mia situazione, io ho fatto dei buoni postali, diciamo dal 1980 al 1985, e sono andati in scadenza, diciamo il 2014-15. Andando a cambiare l'ultimo buono postale, ho visto che gli ultimi 10 anni di interessi non mi sono stati accreditati. Cioè, sul dito del buono ci sono 20 anni che vanno a percentuale, poi gli ultimi 10 anni sono a tasso fisso. Sì. E quindi mi sono trovato con almeno 7-8 mila euro in meno. Raffaele, la ringrazio, vado subito ad Alessandro Pedone. Questi appartengono proprio a quella serie che praticamente avevano delle condizioni, quelli precedenti al 1986, quindi è una data spartiacque e molto importante, come abbiamo detto prima. Che le suggerisce il caso di Raffaele Pedone? Esattamente. Questo è uno di quei casi nei quali, dal nostro punto di vista, sebbene sappiamo che altre associazioni stanno facendo iniziative diverse, dal nostro punto di vista la giurisprudenza si è consolidata in maniera oramai talmente schiacciante, per il quale, sebbene noi riteniamo una profonda ingiustizia questa cosa, crediamo che sia sconsigliabile di agire legalmente per questa circostanza, perché oramai appunto questa legge dell'86 è più volte stata dichiarata legittima, e quindi per noi è una grande ingiustizia, ma non consigliamo, così non può far nulla Raffaele. Credo che sia la stessa situazione di Michele da Salerno, a cui chiedo di raccontarci molto velocemente anche il suo caso. Michele, benvenuto all'800 24 00 24. Sì, buongiorno Nicoletta, buongiorno Debora. Io mi sono prenotato all'inizio della trasmissione e il tema è stato abbondantemente dibattuto. Per aggiornare la sua statistica, in famiglia ne abbiamo 5 di questi buoni dell'85. Bene, abbiamo fatto un bel bingo, Michele. E quindi niente, lei che cosa, quanto in meno otterrà rispetto a quello che pensava? Uno l'ho già incassato, perché le nonne una volta erano molto, vedevano lontano, ne aveva fatto uno per ogni nipote. La vedi? E quindi questa fantastica nonna ci aveva lasciato uno. Io ne avevo bisogno di incassarlo, quindi l'ho già incassato il mio. Con un rendimento inferiore rispetto a... Guardi, io non sono a casa, però credo siano 10.000 euro in meno su 17 da incassare, ne ho incassati 7, ma ne abbiamo altri 4 da incassare, per questo avevo ascoltato tutti i suoi interlocutori e da quello che ho capito niente, pre 86 non si può fare nulla. Grazie Michele. Allora Pedone, grazie Pedone. Allora sintetizziamo, regaliamogli un libro, dai, con tutte anche due, dai, almeno una cosa di consolazione da Cuore Denari. Allora Pedone, andiamo verso la conclusione della nostra trasmissione. Come si sente di concludere? Che tipo di suggerimenti concreti possiamo dare ai nostri ascoltatori? Allora, ribadendo che magari ipotizziamo chi può oggi trovarsi in una situazione di cattiva sorpresa, chi conviene? Io il consiglio che posso dare è: chi ha sottoscritto buoni postali dopo il 1986 e ha riportato le condizioni del buono postale sul buono postale fisico, vada sul sito della Cassa Depositi e Prestiti o anche quello delle Poste, veda, inserendo la data, quanto sarebbe il rimborso che le Poste ritengono di dover dare. Nel caso sia diverso dalle condizioni stampigliate sul retro del buono postale, faccia immediatamente un reclamo alle Poste chiedendo che vengano applicate le condizioni che sono sul retro del buono e non quelle indicate sul sito, che sarebbero poi quelle che vorrebbero le stesure le poste. Se le poste respingono al mittente, ovviamente parlo se anche nel gergo postale. Come sappiamo che fanno, ma io ripeto, le poste avevano a suo tempo una volta detto che di fronte alla sentenza della Cassazione avrebbero cambiato le cose, in realtà non fanno così, quindi a me farebbe piacere farle venire qualche volta in trasmissione a chiedere perché hanno respinto al mittente e anche noi ieri. Nel caso in cui debbano fare queste cose, come nel caso della signora Lorella, l'arbitro bancario e finanziario è un po' lentino ultimamente, diciamo, si prende quasi un annetto, mentre prima faceva le cose anche in una novantina di giorni. È un po' lentino, però i costi sono estremamente contenuti perché sono una cosa intorno a 25 euro di bolli, non bisogna avere avvocati, non è una cosa dispendiosa e sappiamo, come nel caso della Loretta, che poiché c'è giurisprudenza straconsolidata, da sempre ragione, da quasi sempre, ora non voglio dare certezze del futuro è nelle mani di Dio, diciamo, però nella nostra esperienza nel 100% dei casi abbiamo sempre ottenuto ragione quando si tratta di questo caso, non il pre-93-86. Allora, io ringrazio Alessandro Pedone per queste ultime informazioni molto concrete che ci ha dato, magari ci ritorneremo più avanti. Ci sono anche più avanti, ci sono altri casi che ci sono stati segnalati da molti ascoltatori che abbiamo ritenuto di non far intervenire perché non sono non riguardavano esattamente il tema di questa mattina, ma a quanto pare molte persone sottoscrivono questi buoni postali, poi se ne dimenticano, li lasciano cadere in prescrizione. Stamattina ci sono arrivate 2 o 3 mail di questo tenore. Poi magari Pedone gliele giro. Per... tema anche questo della prescrizione. Esatto, però anche lì io mi dico, per carità del cielo, può capitare. Facciamolo però sono soldini che mettiamo da parte. Come facciamo a dimenticarci di investimenti fatti 10-15 anni fa? Non allora, facciamolo insieme ad una puntata dedicata alla memoria. Io sono molto d'accordo. Bisogno. Esatto, perché insomma prenderci cura dei nostri risparmi è molto importante. Per cui fate attenzione su un conto che magari questo buono ce l'ha sottoscritto la nonna di nascosto e lo ritroviamo in un cassetto. Così a sorpresa, un conto è che l'abbiamo fatto noi e ce ne siamo dimenticati, quindi mi raccomando, grazie ad Alessandro. Dobbiamo dire che talvolta diciamo giustamente ce la rifacciamo con le banche eccetera, però molte volte gli investitori sono i peggiori nemici di se stessi, ancora più di certe banche o istituti che diciamo fanno un po' di trabocchetti. Grazie ad Alessandro Pedone. Buon lavoro. Buon lavoro anche a lei, torni presto a trovarci correndo, perché lo sai che Alessandro è un grande runner è uno che corre, ecco. E adesso invece noi mettiamo a frutto, ti è piaciuta? I consigli del professor Andrea Salogna, che è qua già in studio con noi, urologo, andrologo presso il Dipartimento di Urologia dell'Università Vita Salute del San Raffaele di Milano e responsabile scientifico del progetto di Cuore Denari che si chiama Salute Uomo. Allora Andrea. Beh, il concetto dell'investimento vale assolutamente in termini di salute. Oggi si parla sempre più di promozione della salute al maschile, perché noi ci occupiamo di quello nel nostro spazio di Salute Uomo, ed è certo vero che si possa parlare di promozione della salute in termini di investimento a tutto tondo. Si può parlarne in termini cardiovascolari, in termini di tipo dermatologico, oggi avremo il nostro ospite dermatologico, possiamo parlarne dal punto di vista urologico a tutto tondo ancora una volta e sempre più dal punto di vista andrologico. Ci sono moltissimi aspetti di cui si può parlare proprio in termini di investimento sulla salute. I migliori anni dell'anno. Sono i migliori anni della nostra vita? Una domanda a cui hanno cercato di rispondere studi, sondaggi che sono andati un po' alla ricerca dell'età più soddisfacenti e dei motivi che le rendono tali. Sembrerebbe che i migliori anni siano quelli tra i 50 e i 60, quando raggiunta la maturità si riescono a conciliare meglio gli impegni lavorativi con quelli familiari, privati e si impara anche un po' ad apprezzare il buono della vita, mentre l'età, gli anni più stressanti, manco a dirlo, sono quelli intorno ai 35. Insomma, com'è dire che l'età, Deborah, anzi gli anni fanno la differenza, lasciano il segno, e di questo parliamo oggi con Andrea Salogna e con il professor Antonino Di Pietro, direttore dell'Istituto Dermoclinico Vita Cutis al gruppo ospedaliero San Donato, che finalmente abbiamo il piacere di avere in studio con noi. Buongiorno, che bello. Allora, il piacere mio, io ho ancora 6 mesi, dopodiché supero i 60 anni e quindi... visto che qui ci sono tra i 50 e i 60 sono gli anni migliori, quindi questi 6 mesi devo cercare di acchiappare il più possibile. Mamma mia! Allora, 2 esperti per analizzare i cambiamenti visibili e quelli invisibili, ma con cui l'uomo, passati gli anni, si deve confrontare. Professor Di Pietro, ci hanno fatto credere per anni che con il passare del tempo gli uomini maturassero e le donne invecchiassero. Noi ci abbiamo abboccato al punto da pensare che la pelle dell'uomo fosse naturalmente dotata di un naturale anti-aging. Non è così, ecco, diciamolo, perché c'è ancora qualche uomo che ci crede e si comporta come tale. Invece anche l'uomo si segna. Sì, e noi lo vediamo. Direi proprio di sì. Adesso che ce ne siamo accorti c'è una grande riscossa, perché c'è una enorme richiesta verso noi dermatologi per sapere come mantenere anche la pelle nostra maschile in miglior forma e anche in miglior giovinezza. Però è vero, invecchiamo anche noi, ammettiamolo, c'è la parità dei sessi in questo caso. Professore, c'è un segno nel viso dell'uomo che ne svela l'età? Eh sì, c'è. Anzi, mi piacerebbe che qualche ascoltatore... Facciamo che noi lo ne... Certo. Allora, c'è. Vi dico, è nella parte superiore. È nella parte Quindi, superiore. È nella parte superiore. Focalizziamo ancora di più il volto. E c'è un punto dove, quando appare quel segno, ahimè, ci siamo. E io tutte le mattine, visto che ormai ho 6 mesi, tutte le mattine mi guardo allo specchio e dire: è apparso o non è apparso questo segno? Allora, se volete saperlo, provate. Qual è quel segno che vi fa dire? Chissà se io sono molto curioso, devo dire la verità, allora, perché nella mia parte superiore, che è totalmente libera da capelli, probabilmente questo segno si vedrà ben prima. Allora, 800 24 00 24, diteci secondo voi qual è il segno che fa capire che, insomma, l'uomo, nonostante i vari camuffamenti, è arrivato all'età allora buona. Allora X, ma diteci anche, l'invito è rivolto alle amiche all'ascolto, qual è il segno che in un uomo vi fa pensare all'età che avanza? La pancia, il sottomento, la stempiatura più alta, il modo di camminare? Diciamole tutte ai nostri uomini all'800 24 00 24, però agli uomini all'ascolto diciamo di non abbattersi, perché il professor Antonino Di Pietro suggerirà degli stratagemmi che li possono aiutare a mantenere la pelle tonica, elastica e ben curata. Si può ottenere molto con poco, insomma, professor Di Pietro, è sufficiente seguire alcuni accorgimenti quotidiani a partire dalla rasatura fino all'idratazione. Chiamateci per saperne di più. Ma professor Di Pietro, vorrei anche con lei parlare, dato che la pelle degli uomini e la pelle delle donne presentano delle differenze che li espongono a dei rischi maggiori per alcune malattie dermatologiche, e sto pensando alla dermatite seborroica, che finalmente preferisce un pochino, no? Noi di solito siamo le preferite, e invece stavolta la dermatite seborroica preferisce preferite. Non è che ci butti via, però insomma ha una preferenza, diciamo che non disdegna le donne, ma sicuramente prevale nei maschi, nel sesso maschile. E la dermatite seborroica colpisce in modo caratteristico i lati del naso, con un arrossamento, una desquamazione, l'attaccatura dei capelli, ma anche lo sterno, che si desquama da prurito, diventa così più eritematoso, diventa più rosso. La dermatite seborroica è caratteristica nei maschi perché pare che ci sia una componente ormonale, quindi una maggiore stimolazione delle ghiandole del sebo da parte degli ormoni androgeni, ma è anche molto legata allo stress, al sistema nervoso. E quindi nei maschi, che soprattutto sono molto in competizione, in questo caso anche nelle donne che sono in competizione, appare con più frequenza. Per fortuna adesso c'è, quindi la competizione rimedio. si potrebbe dire. Certo, sì, perché la competizione fa aumentare gli ormoni androgeni. Gli ormoni androgeni sono quelli che danno la pronta risposta, sono quelli che stimolano di più anche l'attività muscolare. Le ghiandole del sebo diventano più attive, quasi a produrre maggiore sebo, che poi deve difenderci dalle aggressioni esterne, quindi dai nemici, piuttosto che così, dai nostri colleghi con cui si entra a chi arriva prima. Così sgusciamo via. Ecco, la ricerca offre una buona soluzione, tra l'altro con delle sostanze naturali che derivano dal vecchio allume, che era quella pietra che usavano i nostri nonni quando dopo la rasatura. Ecco, è stato scoperto che dall'allume è possibile ricavare dei principi attivi che, uniti a un'altra sostanza che deriva dalla liquirizia e da un precursore della vitamina A, il retinolo, ecco, l'insieme di queste tre sostanze ha dato vita alla aluchina, E la lucchina è un composto attivo estremamente interessante e anche molto efficace per la dermatite seborroica, e si riescono a risolvere la stragrande maggioranza dei casi verso cui prima c'era poco o nulla, o con dei farmaci che potevano avere effetti collaterali. Ecco, quindi con la lucchina, questa è un po' una news, si riescono a ottenere ottimi risultati per la dermatite seborroica in forma di crema o di shampoo, viene declinata insomma in vari tanti prodotti che possono servire. Non dimentichiamo che il 90% delle forfore sono in realtà una dermatite seborroica, quindi è una desquamazione del cuoio capelluto dovuto a questo sebo con delle particolari caratteristiche di acidità, ecco, che irritano la superficie del cuoio capelluto e determinano appunto questa forma. Il professor Di Pietro ci porta sempre delle indicazioni concrete, anche per nella puntata di Bologna ci ha raccontato le nuove, no? Come la tecnologia aiuta a preparare dei cosmetici sempre più intelligenti che arrivano a nutrire le cellule nel modo corretto. Ne parleremo intanto. Ci torneremo poi. Sì, perché anche dopo. Per gli uomini ci sono delle indicazioni. Federica, buongiorno da Padova, ha raccolto il nostro invito. Federica, buongiorno. Buongiorno. Quando è che sgama l'uomo, quando insomma è un po' avanti nel tempo? Magari fa il giovincello, però lei dice: eccolo lì, questo qua, ecco, li ha superati. Una cosa che cerco di guardare è la ruga intorno agli occhi, la cosiddetta zampa di gallina. Anche se ho la fortuna di essere sposata con un uomo ancora molto giovane, perché ha 37 anni e quindi questi segni non ce li ha. Sì. Però io guarderei, quando il professore parlava della parte superiore del viso, mi è venuto in mente che comunque negli occhi, intorno agli occhi, lì secondo me si nasconde un po' l'età dell'uomo. È lì che cade. Federica, le analizziamo davvero tutte? Sì, ma sì, non è proprio quello. Quello è uno dei segni, ma non è quello caratteristico. Ecco. Grazie Federica. Andrea, parliamo anche dei segni invisibili, no? Anche le statistiche, gli studi clinici lo confermano, i maschi tra età compresa tra i 50 e i 65 anni sono soggetti a una serie di cambiamenti del corpo che si vedono ad occhio nudo: la pelle è più secca, segnata, compaiono le rughe, le macchie, i cedimenti, la fronte diventa spaziosa, ma ci sono anche dei segni che non si vedono ma che gli uomini conoscono bene, forse anche le loro compagne, poi di riflesso. Molto bene, peraltro mi piace pensare a quello che ha appena detto il professor Di Pietro. Ci sono almeno due aspetti importanti. Il primo legato a questo tenore androgenico a cui faceva riferimento, al fatto che i nostri ormoni maschili, il testosterone in primo luogo, di cui abbiamo tante volte parlato, abbia una così grande, così rilevante importanza nell'ambito della salute al maschile, appunto. E l'altro aspetto è legato proprio a questa decade di cui continuiamo a occuparci quest'oggi, dopo i 50. In realtà il processo di invecchiamento al maschile, come al femminile, ma parliamo di maschietti oggi, comincia ben prima, e ne abbiamo discusso durante tutte le nostre puntate. A partire dai 40 anni probabilmente qualcosa scatta, nel senso che dal punto di vista dell'invisibilità dei sintomi qualcuno tende a recuperare la propria prestanza fisica precedente. Non è a caso che si comincia a correre, ad esempio, e il professore ha ben detto adesso che esista la possibilità di stimolare la secrezione di ormoni androgeni attivandoci dal punto di vista fisico riabilitativo. Ne abbiamo parlato tante volte. Questo è lo stesso motivo per cui paradossalmente fare più sesso induce una secrezione maggiore di testosterone, correre, muoversi, attivare fisicamente il nostro corpo. In realtà non esiste un elemento di tipo menopausale al maschile, perché per un motivo banale la natura ci ha fatto in modo tale che non esiste un'interruzione dei cicli ovarici come esiste nella donna, per cui nella donna si parla di perimenopausa e di menopausa, crollo degli ormoni estrogeni. Non abbiamo un crollo, c'è un progressivo declino dei valori di testosterone circolante, di quell'ormone che è importante a partire dai segni invisibili, la memoria, la capacità di concentrazione, le capacità di tipo intellettuali, il sonno. Gli uomini che invecchiano tendenzialmente hanno una propensione all'insonnia. Perché? Perché i valori di testosterone fungono in questo caso da neurosteroidi, cioè da promotore di quel passaggio importantissimo che va dalla fase di sonno non REM a una fase di sonno REM, di sonno profondo, e quindi il sonno è interrotto. E ancora, perché noi maschietti ci alziamo più spesso durante la notte? Per un problema squisitamente maschile, l'ipertrofia prostatica e i disordini nell'urinare, ne abbiamo già parlato. Anche questo frantuma e frammenta il sonno e induce sostanzialmente una riduzione delle fasi di sonno REM. Questa è una fase di invecchiamento. non si può parlare di andropausa nel vero senso della parola. Sì, oggi scientificamente si parla di, in termini anglosassoni, aging male, cioè di uomo che invecchia, al quale corrisponde un corteo di sintomi che vanno dall'astenia, cioè da una maggiore stanchezza, un'alterazione della rappresentazione pilifera, un'alterazione dei segni cutanei che sono tipicamente maschili, dalle macchie, che non lo sono in assoluto ma sono peculiari di alcune caratteristiche maschili, fino alla perdita della rappresentazione pilifera a livello del pube. Banalmente, un malato 2 giorni fa mi diceva: io ho perso i peli pubblici, mi sento vecchissimo. Quando mai 10 o 15 anni fa un uomo sarebbe venuto a lamentare una cosa di questo genere? È un po' un recupero del concetto dell'invecchiamento al maschile come segno di invecchiamento promotore di salute, cosa che fino a 15 anni fa culturalmente non c'era. E noi ne vogliamo parlare, insomma, devo dire che abbiamo descritto un quadro abbastanza distruttivo. State lì, non preoccupatevi, perché nonostante tutto noi non vi rottamiamo. Assolutamente no, ecco. È importante non proprio pensarlo salute... al contrario. Vero? Ti posso leggere un messaggio, sì? Di un mio amico su Facebook che mi ha scritto: la puntata di oggi mi dà una divertente angoscia, sto osservando le borse sotto gli occhi, aiuto. Salutiamo Giovanni. Intanto stanno cercando il segnale per individuare il tempo che passa, ma si descrivono anche gli uomini. Umberto dice: uno sfacelo, crollo delle guance, gozzo, macchie sulla pelle. Ma oggi ve ne accorgete? Umberto, si tiri su, ecco, ci chiami, forza, che gli arriva un libro. Poi abbiamo già Italo, poi abbiamo anche Sara da Bergamo, perché vogliamo le nostre ascoltatrici che con grazia ed eleganza raccontino come vedono i loro compagni, i loro uomini, quali segni intercettano del passaggio degli anni. Se possiamo dire, non solo li raccontino, ma li aiutino a star meglio, perché un dato che abbiamo sempre distinto, noi dobbiamo fare, sì, avete una grande responsabilità, perché noi maschietti, purtroppo, per quella vis che ci caratterizza da ancor prima del tempo dei romani, abbiamo fondamentalmente la tendenza a credere a) di non ammalarci, b) che i segni di invecchiamento non abbiano più di tanto significato e che non esprimano un concetto di poca salute. Quindi abbiamo sempre bisogno delle compagne o di chi ci aiuti fondamentalmente a rivolgersi alle persone giuste. E allora dai che li rifacciamo anche un pochino più giovani con i consigli del professor Antonino Di Pietro, a tra poco, dopo i mercati, perché i mercati ci tirano su o ci tirano giù? È un po' giù oggi. Un po' giù, dai. A tra poco. Cuore e denari. Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. È una delle mie canzoni preferite che oggi mi aiuta a riprendere il tema della puntata, perché descrive quello di cui parliamo oggi, la percezione di quel cambiamento più o meno evidente prodotto dagli anni. La canzone infatti dice: improvvisamente non sono l'uomo che ero, c'è un'ombra che sta sopra di me. 800 24 00 24, stiamo invitando le nostre ascoltatrici, le amiche di Cuore Denari, di chiamare il nostro numero verde per raccontarci quali segni visibili o invisibili vedono nel loro, sentono nel loro compagno. Andrea, ma invitiamo anche i maschietti direttamente, però certo, invitiamo naturalmente anche gli uomini, perché la puntata è dedicata a loro, ma Andrea, noi vogliamo sempre coinvolgere le nostre ascoltatrici, perché Salute Uomo è un programma, che è un appuntamento dedicato all'uomo, ma naturalmente voi senza il nostro coinvolgimento non potete andare da nessuna parte, quindi teneteci buone. 800 24 00 24. Questo è un po' allora, arrivano dei messaggi bellissimi. Mamma mia. Vai, Deborah. Vado io. Allora, per quello che riguarda il segno che per primo manifesta l'inizio della fase un po' di, come possiamo chiamarla, decadenza, no? Non è invecchiamento. Bellissimo. Allora, ascoltatore dice: anche delle belle cose. Dice: sono le palpebre superiori cadenti, ma personalmente per me conta il Walter. E qua lasciamo. Perché io avevo specificato la parte superiore, perché ci sono anche nelle parti basse dei segni meglio, molto più lì evidenti. Non tralasciare, quindi sì, no, lì ti riferiamo in alto, ai polpacci, ai piedi, alle caviglie, che diventano un pochino più gonfi. Esclusi i temi urologici. Ok, poi Luigi da Modena, a me ogni anno mi abbandona un organo. Questo è bellissimo. Abbiamo deciso che questo nostro amico abbia vinto il premio per la migliore citazione della giornata, perché in assoluto questa, certo, è la migliore. E lo premiamo anche se arriva al 349-238-6666, perché veramente poi potrebbe, no, sintetizza tutto, sì, quello che vorremmo in realtà. Non oggi vorrei che venisse lasciato un messaggio devastante, no, perché non è proprio questo il concetto dell'invecchiamento. Secondo me è un concetto meraviglioso. Io ogni volta che ho davanti a me un uomo che fondamentalmente mi racconti la sua storia, sono quasi emozionato dall'idea che abbia vissuto delle esperienze che io non potrò vivere, e che fondamentalmente tanto più vecchio è, quanto più ricche siano queste sue esperienze, tanto meglio è sentirle, ascoltarle. In linea di massima, le persone, gli uomini che arrivano all'ambulatorio di un urologo, di un andrologo, di chiunque si occupi di una persona che invecchia, in linea di massima hanno solo da insegnare, e questo è un aspetto importante. In secondo aspetto che tendo a sottolineare ogni volta è che avere un problema di salute non è mai una colpa, è sempre meglio promuoverlo ovviamente. Il percorso, certo, di invecchiamento ci dà il là per mille motivi. In questa settimana si è parlato tantissimo di alimentazione, di quanti danni possano fare insaccati e carne rosse. Al di là, tralasciamo tutte le polemiche, ma una dieta corretta nella persona anziana ha un suo significato, la riabilitazione fisica, l'attività motoria, ovviamente corrispondente alle possibilità dell'anziano, ha una sua importanza. Considerare i segni, quelli visibili, ne abbiamo parlato di alcuni dermatologici, di altri urologici, ma quelli invisibili, la riduzione del sonno, la deflessione del tono dell'umore, la minor concentrazione, le alterazioni della memoria. Alcune puntate fa parlammo della depressione. È più facile purtroppo che gli anziani invecchino e al contempo abbiano una deflessione del tono dell'umore. Anche questa non è una colpa, bisogna sostanzialmente pensare che la figura più corretta possa essere quella del geriatra o dello psichiatra dell'anziano, da cui andare e chiedere aiuto. Tutti questi segni fanno parte di un percorso. Aggiungiamo anche la ginecomastia, ci suggerisce Bruno. Ne abbiamo parlato, vi ricorderete, sì, alcune puntate andare... sono. Potete andare sul sito di Salute Uomo proprio a vederlo. La ginecomastia è un altro segno importantissimo, la creazione, o meglio lo sviluppo, l'ipertrofia, l'ingrossamento di quelle che sono le ghiandole mammarie sotto il capezzolo, che talvolta proprio nell'uomo che invecchia, soprattutto se soggetto un po' sovrappeso, è possibile che compaiano. Non dimentichiamoci degli uomini molto muscolosi, cioè quelli con una rappresentazione molto marcata dei muscoli in tabo giovanile, che tendenzialmente lasciano l'attività fisica, questo esercizio reiterato nel tempo, e che purtroppo possono avere nel tempo una riduzione del tono muscolare. Anche in quel caso è possibile che la morfologia, la forma del corpo, cambi, soprattutto il tronco, cambi. Anche questo non deve essere visto come un elemento di devastante. Però il professor Di Pietro ci ha promesso e ci darà consigli e suggerimenti per mantenere la pelle tonica, elastica e idratata, partendo proprio dai gesti quotidiani che possono salvare la pelle dei nostri compagni. Professor Di Pietro. Certo, ma il gesto quotidiano maschile per eccellenza è la rasatura, no? Parlando di viso. Sì. Ecco, la pelle quando invecchia comincia ad accumulare sulla superficie delle cellule morte, le cellule cornee. E normalmente tra i vari metodi che abbiamo noi dermatologi per mantenere più giovane la pelle c'è il peeling, cioè si cerca di portare via questo accumulo di cellule morte. Ecco, i maschi hanno una gran fortuna perché tutte le mattine, radendosi con la lametta, fanno un peeling fisico con la lametta, cioè infatti portano via delle cellule morte. Infatti rasati perfettamente, pensavo che l'avessero fatto per noi. Mentre parlava lo guardavo. Perché hanno detto, vedi, sanno che vengono qua, guarda come sono rasati, invece per voi lo fate. Questo è importantissimo perché è una delle ragioni per cui a parità di età una pelle maschile invecchia un po' più lentamente sul viso rispetto a quella femminile. Infatti i maschi che si fanno crescere la barba a parità di età hanno la pelle più vecchia quando la tolgono, no, e quindi quando si radono. Quindi già la rasatura di per sé è un rimedio a cui non ci facciamo caso, ma per mantenere la pelle più giovane. Poi il dopo barba. Ecco, c'è stata un'evoluzione del dopo barba. Molti uomini quando vengono da me e timidamente si avvicinano a delle terapie anti-aging, dei consigli, mi dicono: senta, ma mi può consigliare un dopo barba? Allora lì intuisco e che traduco la loro richiesta, e mi può consigliare un anti-aging qualcosa, perché di solito se mi chiede dopo barba sono un po' timidi. E i dopo barba che ci sono adesso, le creme dopo barba, sono in effetti efficaci. Quelle efficaci sono quelle che contengono le sostanze di cui parlavamo la volta scorsa, e quindi la lucina, per cui il fosfidin, quindi la possibilità di poter mettere sulla pelle i fosfolipidi, la glucosamina, che sono delle sostanze eccezionali per mantenere la pelle giovane. Come poi invece si va verso cure un pochino più impegnative, che possono essere fatte col proprio dermatologo, certo. I peeling quando cominciano a comparire le macchie, oppure i laser quando cominciano a comparire le prime venuzze, di solito ai lati del naso e poi vanno verso le guance, quindi anche quello è un problema legato all'invecchiamento. O se bisogna intervenire sul turgore, sull'elasticità, sull'idratazione profonda, adesso noi utilizziamo molto l'acido ialuronico naturale, che può essere messo a un millimetro di profondità, quindi molto superficialmente, senza rompere i capillari, senza far sentir male. E abbiamo scoperto l'importanza dell'acido ialuronico sulle cellule della nostra pelle, in quanto è in grado di stimolare l'attività delle cellule, la vitalità e quindi la rigenerazione. Puntare sulla rigenerazione è importante, e questo può essere un ottimo rimedio per frenare un po' quei segni. Ma hanno risposto? Allora, infatti, vogliamo dare, abbiamo Roberto, Italo, Sara e Cristina. Bella. Vero? Sono sì, perché mi sono tolto un attimo gli occhiali. No, 800 24 00 24, state lì, andiamo a sentire che cosa succede sulle strade e sulle autostrade, torniamo subito dopo insieme, tra poco. Autostrada Pedemontana, la prima e unica senza caselli, scoprila su pedemontana.com. vi presenta Cuore e Denari. Siamo tornati insieme, uomo dove vai? Resta con noi. 800 24 00 24, consigli per godersi il passare degli anni, perché non è, gli anni non solo tolgono ma anche aggiungono. Abbiamo chiesto alle nostre ascoltatrici, ma anche ai nostri ascoltatori, come sottolineava Andrea Salonia, di individuare quel segno sul viso dell'uomo, professor Di Pietro, nella parte alta, e stiamo lì, ci concentriamo sul viso, non scendete oltre, perché se no lì c'è l'imbarazzo della scelta. È troppo facile. Troppo poi, facile, vero? Anche tu però. Allora sì. Carmelo è già preoccupato, si sta, ho detto qualcosa ma che non andava. C'è, perché c'è Carmelo, 40 anni, che no, cosa vuol perché, parlare? Perché si era, li ha salutati anche da un po'. Io ho individuato già il segno in Carmelo. Sì. Dove andiamo? Sentiamo se lo ha individuato Italo da Roma. Buongiorno. Buongiorno, Italo. Mi sentite? Sì. Bene. Buongiorno, senta, per me sono le rughe che compaiono sulla fronte. Ogni ruga sono 10 anni, sì. Ogni ruga 10 anni, come avevo le rughe da espressione a 15 come, anni, come quelli degli alberi, a cui è dedicato anche l'editoriale di Andrea Salonia, che mi invita a leggere. Beh, oltre all'approfondimento ci sono, del professor Di Pietro, ci sono anche quelle, ma non è quello il segno caratteristico, ma eventualmente che denota il passaggio. Per cancellarlo quel segno? Sì, ci sono dei rimedi drastici. Sì, per la, no, pensavo alle Quelle della fronte, quelle della fronte si può intervenire con l'acido ialuronico, ma quelle della fronte spesso sono, anzi sempre, sono legate all'espressione, quindi sono tutto sommato delle belle pieghe, perché sono quelle che fanno capire quello che stiamo dicendo. Sa che cosa mi sto riferendo? Ecco, tutti quei metodi per paralizzare la fronte, non farla più muovere, non ritengo che siano giusti, non sono per nulla una buona soluzione per restare giovani, quindi quelle pieghe che ci sono sulla fronte ben vengano. Io... non ci piacciono le facce di plastica tirate? No, non ci piacciono le mummie parlanti. E poi dicono, no, è molto attenta quella signora. Dove andiamo? Andiamo a... Sentiamo Sara da Bergamo, perché si sta un pochino avvicinando. Sara. Buongiorno, Sara. Buongiorno, sono Sara da Bergamo. Sì. Allora, io penso di avere imparato ancora da voi questa cosa, ed è una piccola rughettina o pieghina vicino all'orecchio. Brava Sara! Sì. Ascoltatrice. L'ho scoperta, perché dopo aver ascoltato la trasmissione Ho guardato mio marito e l'ho trovata. E l'ha trovata, però l'ha tenuto. È simpatica, ecco. È simpatica. Sara naturalmente riceve a casa il nostro libro, che non c'è il libro Cuore Denari, ma un libro della libreria di Cuore Denari io vorrei regalarle il tuo. Posso? Non ha risposto però il al mio? Fatto sì. Ma, magari ne vuole uno di cuore un po'. Perché, vabbè, dai, adesso donne di denari. Va bene, Donne di denari, il libro di Deborah Rosciani che io vi invito a leggere per acquistare una consapevolezza, perché gli anni passano e bisogna, no, iniziare da giovani. Esatto, ad avere un rapporto sereno. Poco di rughe, ma magari ad avere un rapporto sereno con i nostri denari. Grazie. Allora, dove andiamo? Vabbè, allora, sai, Tommaso da Foggia ce lo siamo subito voluti portare a casa perché ci divertiva molto questo suo modo di dire. Tommaso, benvenuto. Buongiorno. Buongiorno. Allora, allora il problema della vecchiaia è che ha da fare come vuoi e non come vuoi tu. È magnifica, qua c'è tutta una filosofia, come dici tu, lo stampiamo nella pietra, sì, lo incidiamo sulla pietra, questo detto. Senta Tommaso, lei ha lì vicino ha un cane? Un cane? Sì, no. No, ti sentiva degli cani guaiti. Stanno urlando. Ah, vabbè. Allora, Andrea, il commento è tuo. Tommaso, ce la ridica nel modo perfetto come l'ha detta lei, con quell'inclinazione che ci fa. Allora. Da fa come vuoi e no come vuoi tu. Professor Salogna. Purtroppo è un po' vero, anzi è verissimo, nel senso che ancora una volta, e ci riferiamo al Walter di prima, di cui appunto la nostra ascoltatrice prima ha parlato, purtroppo è uno dei segni più classici dell'invecchiamento è proprio la perdita progressiva della capacità di erezione del pene, che è un altro dei marcatori di salute e di invecchiamento di cui tante volte ci siamo occupati. È marcatore della salute cardiovascolare, perché spesso nei soggetti tendenzialmente più giovani, soprattutto se ci fossero delle comorbidità come un diabete piuttosto che un'ipertensione, è anticipatore di segni cardiologici molto più severi, addirittura di 4 anni, dicono le statistiche, e al pari è un segno, non dico ineliminabile, ma è un segno molto peculiare, quasi patognomonico, dell'invecchiamento dell'uomo. Tanto che tutti gli studi e l'esperienza clinica ci dicono che a partire dai 40 anni, in realtà, è molto facile che un uomo abbia un progressivo peggioramento della qualità di ottenimento dell'erezione, di mantenimento dell'erezione, anche se non bisogna trascurare il fatto che nella clinica di tutti i giorni un uomo su 4 che arrivi in ambulatorio chiedendo un aiuto per una disfunzione erettile abbia meno dei 40 anni. E quindi è sempre un segno estremamente importante, quasi una cartina al tornasole dello stato di salute generale maschile, ed è proprio quello su cui la ricerca oggi si sta largamente impegnando. Chiudiamo con Roberto da Bologna. Buongiorno Roberto. Buongiorno a voi. Benvenuto. Bella trasmissione, sempre interessante, bravissime. Grazie Roberto. Allora, io volevo riportare l'attenzione su un segno invisibile che ho provato per esperienza diretta. Sì. Che per me è uno spartiacque che si verifica o mi si è verificato attorno ai 40 anni circa, hanno più, hanno meno. Ed è il tempo di recupero. È vero. Tempo di recupero. Tempo per una fatica fisica, tempo di recupero per un'attività sessuale, eccetera, eccetera, eccetera. Mi sono accorto che dopo una faticaccia, mentre in un attimo prima la smaltivo ed ero di nuovo pronto, a un certo punto avevo bisogno di riposare ancora un po'. Certo. L'attività fisica e l'attività sessuale ancora peggio. E quindi per me è importante, e me ne sono accorto, che si sta invecchiando dai tempi di recupero su determinate azioni, funzioni Roberto, o fatiche. La ringrazio perché questo è uno spunto che noi potremmo prendere proprio per farne una puntata intera, ma il tempo di recupero che tante volte diciamo, il weekend non basta, anche per la pelle. Anche per la pelle, infatti come facciamo a capire se noi siamo un po' più vecchi, un po' più giovani? Dal recupero, da una piega dopo un'espressione, no? Quindi quando noi sorridiamo si formano delle pieghe ai lati degli occhi, ma questo succede anche a 20 anni, invece a 50 anni, a 60 anni, quando poi diventiamo seri, quella piega impiega quella frazione di secondo in più a spianarsi, ed è questo che determina, soprattutto a primo acchito, un viso più giovane o un più anziano. Vedi anche le pieghe, quelle che si fai con sul cui cuscino, quando al mattino ti svegli, sei un po' segnata, poi dici sarà una piega del cuscino, no, sì, è rimasta, questa è rimasta. Sì. Il tempo di recupero è fondamentale, il nostro Roberto faceva proprio riferimento ai due aspetti importanti, il tempo di recupero fisico e il tempo di recupero sessuale, questi sono due quasi elementi paradigmatici dell'invecchiamento. 40 anni, noi abbiamo detto prima la decade importante tra i 50 e i 60, in realtà la decade del super lavoro in linea di massima è tra i 40 e i 50 anni. Io ricordo sempre il mio direttore che diceva alcuni anni or sono, adesso ne ha più di 50, proprio questo aspetto. Da tra i 40 e i 50 esiste una specie di spartiacque significativo in questa direzione, e il fatto dei segni cutanei, la pelle che ha un tempo maggiore di recupero, secondo me è delizioso anche solo come minimo segno clinico che nella quotidianità può essere utile al paziente che viene a trovarci e a noi medici che ci occupiamo dell'uomo che invecchia per poter fare una diagnosi più chiara. Che allora, puntata spettacolare, posso dirlo? Che puntata spettacolare con due esperti straordinari che naturalmente sono a vostra disposizione. Ad alcune domande non siamo riusciti a dare una risposta, scriveteci. Allora, grazie al professor Antonino Di Pietro, grazie al professor Andrea Salonia. Grazie. Noi torniamo lunedì, facciamo questo weekend, naturalmente ci ritempriamo un po'. A proposito di tempi di recupero. A lunedì, buon weekend a tutti. Grazie.